Italia in controluce. Buon pomeriggio da Daniele Biacchessi. Oggi è il 13 di gennaio e state ascoltando la seconda edizione di Italia in controluce, il programma di Radio 24 condotto da Daniele Biacchessi, che indaga tutti i giorni sulla cronaca, sulla politica, sul costume e più in generale sulla società italiana. Tre edizioni quotidiane, 6:30, 13:30, la replica alle 3:40 del mattino. Oggi è venerdì e ogni settimana a quest'ora do la linea a Piera Ceci per Scuola in Controluce. Scuola in Controluce. Un ragazzo bocciato alla maturità, un ricorso, anzi due ricorsi ai giudici che gli hanno dato entrambi ragione. Conclusione, 5.000 euro per ragazzo e famiglia che dovrà tirare fuori il Ministero della Pubblica Istruzione. Una storia paradossale, ma neanche tanto, quella che vi raccontiamo oggi e che ha come sfondo un liceo artistico di Firenze. Ma ancor più ha come sfondo, da un lato, una scuola che deve stare più attenta agli atti formali, perché altrimenti diventa attaccabile giuridicamente. Dall'altro, ragazzi spalleggiati spesso dalle famiglie, pronti ad attaccarsi alla forma invece di pensare a studiare un po' di più. Crinale e pericoloso questo, che potrebbe aprire le porte a molte altre cause. Ma torniamo al caso fiorentino. Ci racconta tutto il legale del ragazzo che ha fatto ricorso, l'avvocato Andrea Pettini. Allora, aspetta, ci sono due giudizi. Un primo giudizio del TAR che ha dichiarato la illegittimità dell'esito dell'esame di Stato di uno studente che aveva frequentato il liceo artistico di Firenze. Il motivo della illegittimità era perché in sede di colloquio d'esame non era stato sentito su tutte le materie oggetto del corso e dell'ultimo anno. Il liceo artistico ha un numero di materie piuttosto ampio, di queste 16 materie era stato sentito solamente su 3 materie, neppure quelle maggiormente qualificanti. Quindi il TAR, con questa prima pronuncia, ha detto che l'esito dell'esame era illegittimo per questa ragione. Questa sentenza del 2006 è passata in giudicato. Quindi insomma non era stato esaminato secondo la norma, ecco. Sì, la norma dice che deve essere sentito su tutte le materie durante il colloquio, perché ha visto c'è il meccanismo della tesina. E chissà, magari se non sarebbe stato promosso se questo fosse accaduto. Questo è un po' il concetto, no? Il concetto del TAR è molto semplice. Dice, siccome è stato sentito su 3 materie, viene da pensare che avrebbe avuto maggiori chance qualora fosse stato sentito anche sulle altre materie più qualificanti e di indirizzo, visto che erano licei artistiche, proprio su quelle tecniche non era stato sentito, quindi gli è mancata una chance. Ma la vicenda non finisce qua, perché nel frattempo il ragazzo ha frequentato una scuola privata per un anno per recuperare questo famoso anno perso. Sì, succede questo, che il ragazzo, come altri in queste situazioni, visto l'esito negativo, ha subito un grande contraccolpo psicologico, voleva smettere di studiare e allora i genitori, pur con difficoltà, per cercare di non perdere tutto il corso di studi, visto che era l'ultimo, lo hanno iscritto a una scuola privata, pagando una retta che era appunto di questi 5.000 euro, cosicché il ragazzo ha avuto la possibilità di proseguire il corso e non abbandonare, perché non sapevamo l'esito quando si fece questo ricorso, perché il ricorso è stato deciso dopo, ma nel frattempo il ragazzo ha continuato a frequentare questo corso di studi. Dopo la sentenza del TAR è stato deciso di chiedere il risarcimento del danno subito, visto che c'era la illegittimità dell'esito dell'esame. Abbiamo fatto un ricorso chiedendo un risarcimento del danno articolato su due elementi. Un primo elemento documentale, cioè le spese per le rette che la famiglia ha sostenuto per far frequentare al proprio figlio il corso di studi nella scuola privata, l'ultimo anno. E poi abbiamo chiesto anche un altro risarcimento del danno, che era sostituito dal sacrificio che ha sostenuto questo studente per aver frequentato un nuovo anno, quando invece ciò non doveva accadere, il fatto di essersi immesso nel mondo del lavoro con un anno di ritardo, il danno psicologico. Abbiamo chiesto anche una voce di danno di questa natura, rimettendoci però al giudice, perché eravamo in difficoltà a quantificarlo e a dimostrarlo in maniera precisa, perché insomma, quanto vale un anno di vita di un ragazzo a quell'età dover frequentare la scuola? Noi non eravamo in grado di quantificarlo maggiormente. Queste erano le due voci di danno. E poi la sentenza del TAR Toscana ha accolto il ricorso, ha accettato la prima voce di danno e ha invece non riconosciuto la seconda. Quindi, siccome c'era la illegittimità del primo provvedimento, il Tribunale ha ritenuto che dovesse essere risarcito quantomeno questo danno documentato. Lei questo ragazzo ovviamente l'avrà incontrato diverse volte? Sì, certo. Ecco, ma insomma, dargli un buffetto sulla guancia e dirgli di studiare un po' di più? Questo lo facciamo sempre, perché questi ricorsi nel settore scolastico sono ricorsi molto difficili e sono proprio l'ultima ratio che deve essere seguita, anche perché poi ci sono degli effetti piuttosto negativi nei confronti degli studenti, che si sentono in qualche modo deresponsabilizzati alla presentazione dei ricorsi, che ripongono nella giustizia delle speranze che delle volte non ci sono. Quindi questo lo facciamo sempre, anzi su, che ne so, su 50 casi che si propongono, i ricorsi che facciamo sono 2-3, non di più, perché è una materia difficile dove c'è ampia discrezionalità dei docenti, non c'è nessuna volontà di speculare su questo fatto, anche se i genitori vorrebbero molte volte fare questi ricorsi, però in alcuni casi è anche opportuno mettere dei paletti. Per esempio, questo paletto riguardo a come deve essere svolto il colloquio, noi pensiamo che sia un paletto importante, perché non è scontato affatto, perché che questo colloquio debba essere fatto in un certo modo, che debba comprendere tutte le materie, che debba dare tutte le chance allo studente su tutte le materie, è un principio magari scontato, ma in realtà non lo era, perché di fatto non c'erano pronunce particolari a quelle che abbiamo visto noi in materia. Insomma, molti ragazzi, e quindi studenti e molti genitori, ci provano a spillare qualche soldo in più invece che rimboccarsi le maniche? È che nel settore della scuola, anche da parte dei genitori, non è sempre facile percepire la reale situazione scolastica, perché delle volte sono sfilacciati i rapporti fra scuola e genitori, perché quando gli studenti sono più grandi questi rapporti spesse volte non sono abbastanza curati, per cui accade che i genitori non sempre hanno la percezione esatta di quella che è la situazione scolastica del figlio, e allora siccome mischiano le aspirazioni ad avere un figlio brillante, un figlio che supera le avversità scolastiche, con quelli che sono i risultati, delle volte accade che cerchino di avere una via giudiziaria alla soluzione di questi problemi, che non è la via giusta. Quindi non è che ci sono delle scorciatoie e non è che questa sentenza voglia far capire che allora bisogna cercare di spillare soldi allo Stato perché è una via facile, è una via difficilissima, tra l'altro non è nemmeno quella da percorrere, non è la via maestra è quella di studiare e di cercare di fare con correttezza il proprio ruolo di studente e anche di genitore. La via maestra è dunque quella di studiare, avverte lo stesso avvocato dello studente che, bocciato, si è visto poi riconoscere un risarcimento da 5.000 euro. Sotto accusa dunque la scuola, che non avrebbe esaminato il ragazzo alla maturità in modo corretto. E allora sentiamo il preside del liceo artistico Leon Battista Alberti di Firenze, Fabrizio Poli, che, lo precisiamo, non era comunque capo d'istituto al tempo dell'esame contestato. Sinceramente sono tutti abbastanza sorpresi di una cosa del genere, però sapevano che c'era il ricorso e sapeva che quello che rimane abbastanza strano è il risarcimento in termini monetari, che sono 5.000 più le spese, se andrà sui 7-8.000 euro, ecco, qualcosa del genere, perché tutti pensavano di aver fatto il loro lavoro. Ecco. Lei come preside che conclusione trae da tutta questa vicenda? Le conclusioni che trago è molto semplice, che bisogna che le verbalizzazioni vanno fatte bene all'esame, perché che va fatto molto coscientemente il proprio lavoro, cioè stando esattamente attenti a quello che viene verbalizzato con precisione, perché gli unici ricorsi che possono fare sono su queste cose. E d'altra parte la scuola può far poco, perché le commissioni sono dello Stato, c'è un presidente che è responsabile di tutto. Secondo lei c'è anche una deriva da parte delle famiglie e degli studenti quando c'è una bocciatura, insomma, voler approfittare un po', insomma, per spillare qualche soldo? Ma più che altro vuol dire che abbiamo delle disponibilità economiche per andare avanti nei ricorsi al TAR, perché insomma a un certo punto, se un figliolo è passato una volta, quello che fa la volta dopo e l'ha fatto l'anno dopo ed è passato, insomma, ecco. Evidentemente hanno, su queste cose hanno trovato il cavillo giusto per poter andare avanti. Si resta un po' così, però c'è poco da fare. Avete ascoltato Scuola in Controluce di Piera Ceci, la seconda edizione in Italia in Controluce. Vi ricordo che questa, come tutte le puntate di questo programma, è scaricabile in podcast su radio24.it. avete molte possibilità per comunicare con noi: Facebook, la pagina, il gruppo, Twitter, il blog sul nostro sito, dove c'è un post su quello che è accaduto nella giornata di ieri con la Camera che ha negato l'arresto di Nicola Cosentino e la Consulta che ha negato il referendum sulla legge elettorale. L'appuntamento è lunedì alle 6.30 su Radio 24 con un reportage sulla partenza dell'area C, la cosiddetta congestion charge di Milano.